si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. E buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati. Dalle 7.30 sino alle 10 saremo insieme. E vi ricordo subito i nostri contatti su Facebook, si può fare trattino Radio 24. Se volete interagire in tempo reale con noi, il nostro account su Twitter è @ si può fare 24, il mio @ Ale Maurizi. Andremo a dare un'occhiata sulle prime pagine dei giornali, poi approfondimenti. Ma naturalmente cominciamo subito con una buona notizia. The good news! E noi ci proviamo sempre a cominciare con una buona notizia, una piccola iniezione di fiducia che questa volta viene da Bologna, giro di vite del comune sui pass per entrare nella zona a traffico limitato. È una delle cose che fa infuriare di più i cittadini e giustamente gli automobilisti, è quella di dire io non posso entrare, ma quanta gente invece entra per le più svariate ragioni. Allora ecco che nel giro di 2 anni il comune di Bologna ha tagliato del 60% i pass appunto per entrare nella zona a traffico limitato. Sentite qua l'elenco delle categorie a cui è stato ristretto la possibilità di entrare nella zona del centro. Allora, la Camera di Commercio, la Fiera, la ASL, la Curia, le case di cura, le cliniche private, le scuole, il Conservatorio, il CNR, la Croce Rossa, gli ordini professionali, il Bologna Calcio. C'è stato anche uno scandalo da parte dei giocatori del Bologna Calcio tempo fa. E poi le società pubbliche come le Ferrovie dello Stato, le Autostrade, la SIAE. Tutta questa gente poteva entrare in comune, in centro a Bologna. Adesso non più. Ogni tanto qualche piccola soddisfazione ce la possiamo togliere, piccola direte voi, ma insomma sono tante le città dove sotto la pressione ormai dei movimenti dei cittadini, la trasparenza e insomma la richiesta del taglio dei privilegi della cosiddetta casta, si va anche nella direzione di tagliare i pass per il centro storico. Cominciamo a dare un'occhiata sulle prime dei giornali di oggi, titoli di politica, titoli economici come normale. Corriere della Sera, titolo principale, l'America va, Europa bocciata. Che succede? Rivisto al rialzo il PIL degli Stati Uniti, 4,1%. A proposito del Datagate, ancora rivelazioni, ha parlato anche Obama, dice parlerò a gennaio. Intanto Bruxelles protesta, Obama dice svolta economica, l'Unione Europea perde la tripla A. Occidente appunto ha due facce, scrive il Corriere, gli Stati Uniti correggono al rialzo il dato della crescita, mentre l'Europa viene bocciata dall'Agenzia di Valutazione dei Debiti Standard & Poor's e perde la tripla A. L'Unione Europea contesta il verdetto, ma il divario è evidente, almeno sotto il segno della crescita economica. Per quanto riguarda l'Italia, detrazioni per 1,3 miliardi sulla casa, Letta, equilibrio, ma non sono Babbo Natale, ha detto così ieri il Presidente del Consiglio. Vediamo sempre a proposito dell'economia italiana, sulla prima pagina di Repubblica, casa meno tasse per le famiglie, Del Rio, il Ministro, 1,3 miliardi di euro ai comuni, Letta appunto dice non sono Babbo Natale. Sulla Repubblica, secondo titolo principale a proposito della fuga, finita, presi i killer, evasi. Sarà trasferito il direttore del carcere di Genova, speriamo alle Poste o in un posto dove non può far danni, con tutto rispetto per le Poste, e sperando che non se la prendano quando vedranno arrivare il direttore del carcere di Marassi, uno che ha detto io non sapevamo che questo signore avesse commesso degli omicidi. Come fa un direttore di un carcere, è come se un allenatore di una squadra di calcio non sapesse di avere Balotelli in squadra, non lo sapevo. Vabbè. La fuga del serial killer Bartolomeo Gagliano, scappato mercoledì dal carcere di Marassi, è finita ieri davanti a un albergo a Mentone in Francia, a pochi chilometri dal confine, dove poi è stato arrestato. Sempre ieri è stato preso anche il pentito di Camorra, Pietro Esposito, scappato pure lui durante un permesso premio, uno che era già evaso una volta nel 2012 dagli arresti domiciliari, e non si capisce come si fa a dare permessi premio a persone che hanno dei precedenti così. Poi naturalmente altro discorso è che questi stessi personaggi arriveranno a fine pena prima o poi, e quindi bisognerà porsi il problema di cosa fare quando tornano in libertà, ma questo è un altro discorso. I temi economici sono naturalmente l'oggetto anche del Sole 24 Ore, che con una serie di approfondimenti spiega tutto quello che c'è da capire. La Camera approva la manovra, il testo passa al Senato per il via libera definitivo. Fondo taglia cuneo, con poche risorse nel 2014 già a rischio 2 miliardi. Il titolo è casa, fisco, pensioni. Ecco che cosa cambia: mini aumento delle detrazioni IRPEF, confermati invece i bonus del 65-50%, per i pensionati la rivalutazione piena è fino a 1.486 euro. Sopra di questa soglia sappiamo che la rivalutazione Istat non è piena e in alcuni casi non c'è per niente. Prelievo di solidarietà sulle pensioni sopra una certa soglia. Il commento di Fabrizio Forché: l'ipoteca sbagliata sulla spending review, cuneo e leggi mancia. Il presidente di Confindustria Squinzi ha detto più volte in questi giorni: si è fatto troppo poco per il cuneo fiscale, ci sono troppe poche risorse. Ed è vero anche che si inizia a lavorare in quella direzione, ma è vero che bisognava forse concentrare le risorse sul taglio delle tasse sul lavoro anziché disperderle magari in tante iniziative. Su Repubblica c'è un approfondimento che riguarda il tema delle slot machine. Lobby delle slot e fronte antigioco. Lo Stato rischia il buco di 1 miliardo. Ma Letta conferma via le penalità ai comuni virtuosi. Che cosa succede? L'avete sentito sicuramente. Secondo le previsioni del governo per il 2014, tra la crisi e le ordinanze dei sindaci, che giustamente, molto giustamente, in questi mesi, in questi anni, ma soprattutto nell'ultimo anno, noi Si Può Fare ce ne siamo occupati spesso, hanno messo delle restrizioni sull'utilizzo vicino alle scuole, vicino agli ospedali, vicino agli asili, insomma vicino ai luoghi sensibili, delle slot machine, e hanno dato incentivi a quei bar che ne fanno a meno. Tutto questo porterà a un minore gettito, un minore numero di entrate, insomma soldi che entrano nelle casse dello Stato, che sulle slot machine, sui videopoker, lucra e non poco. 1 miliardo era stimato. Allora qualcuno ha pensato: come recuperiamo questo miliardo? Lo recuperiamo proprio dai comuni che hanno fatto questa cosa qua, cioè un incentivo al contrario. Tu togli le slot machine, che certo non sono un beneficio per l'umanità, e io te lo faccio pagare. L'artefice di questa cosa qua è la senatrice Chiavaroli del Nuovo Centrodestra, intervistata da Repubblica. Sono per la famiglia, l'ho fatto per l'erario. Sentiamo un po'. Era mio l'emendamento, nel senso che l'ho firmato io, ma in realtà è di tutti quelli che l'hanno votato, salvo poi scaricarlo. Ma chi gliel'ha suggerito? Il sottosegretario Giorgetti in commissione bilancio, dice la Chiavaroli. Aveva fatto presente che l'Agenzia dei Monopoli segnalava questo problema: lo Stato dà le concessioni per giochi e poi i comuni le bloccano, da qui un gran numero di contenziosi. Che c'entrano i contenziosi, giustamente, infatti, perché non è questione di contenziosi, è questione di minori entrate. Rappresentano un grosso problema, ma soprattutto, ecco infatti il punto, dove prendere i 9 miliardi che l'intero comparto giochi frutta ogni anno all'erario se poi i sindaci si mettono di traverso? I sindaci si mettono di traverso per limitare la proliferazione, che ormai ognuno di noi vede nelle proprie città, esagerata, di video poker, di slot house, che ce ne sono a decine in ogni quartiere. E questi cosa fanno? Te lo ributtano addosso. Ma scusi, lei alfaniana, siete il partito della famiglia, ci mancherebbe, ho 3 figli piccoli anche io. Però si è prestata, non dica così, è semplicemente prevista la responsabilità di governo. Questa iniziativa non stride coi suoi valori. Io sarei anche favorevole a destinare parte degli introiti per le cure da ludopatia, dice la Chiavaroli. Le degenerazioni vanno combattute. Vengo dal mondo della scuola e la miglior difesa resta la prevenzione. E allora, dice senatrice, il suo emendamento punisce i comuni che si schierano contro le slot. È generale e astratto, non penalizza i comuni, semmai li costringe a sedersi a un tavolo con lo Stato. Vabbè, insomma, rimanda al mittente tutte le critiche, si trincera dietro un l'ho fatto io ma non hanno firmato tutti, la senatrice Chiavaroli, che è l'origine di questo emendamento folle che penalizza i comuni che cercano di avere un atteggiamento virtuoso sul gioco d'azzardo. Sul Corriere c'è una piccola gustosa notizia, che è questa: il ministro ombra dell'economia di Renzi, Taddei, è stato bocciato. Filippo Taddei, 37 anni, neo responsabile dell'economia del PD, è stato bocciato all'esame per diventare professore universitario. L'economista del PD bocciato in Ateneo. Sì, è imbarazzante. Deve essere piuttosto imbarazzante, gli chiedono. Ma... no, scusi, non per insistere, però... va bene, sì, certo, è imbarazzante, lo ammetto. Ecco, appunto. Uff, è la vita, dice Taddei. Può capitare. Perché ha chiesto questa abilitazione? Gli domandano, perché ho pensato che un giorno mi avrebbe fatto piacere lavorare in una università italiana, cosa che non mi è ancora mai capitata. Ricercatore al Collegio Carlo Alberto, sono docente alla John Hopkins di Bologna, negli Stati Uniti è diverso, qui da noi ci sono altre regole. Io con disciplina ho cercato di adeguarmi, ma è andata come è andata. Ci fermiamo qua, facciamo una pausa, poi ci sarà la rassegna stampa europea, noi torniamo dopo il giornale radio, anche col numero verde 800 24 00 24, tra poco. Sono un piccolo imprenditore e la mia proposta è quella di sbloccare i turnover per i giovani, perché se no la crescita non si verifica. Senza i giovani non c'è crescita. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi, 800 24 00 24, il numero verde per cominciare a intervenire in diretta, per commentare quello che sentite, ma anche come ogni sabato e ogni domenica per raccontare che cosa ha reso bella la vostra settimana. Vi aspettiamo numerosi e anche oggi in premio abbiamo una Smartbox per due persone, peccati di gola, al racconto più bello di che cosa ha reso bella questa vostra settimana, fatti personali, curiosità, ma anche cose che riguardano il vostro quartiere, la scuola dei vostri figli, se avete trovato lavoro, insomma anche cose più grandi, più importanti che riguardano per esempio la vostra città, se stiamo migliorando in qualche cosa. 800 24 00 24, il racconto più bello, a giudizio insindacabile nostro, della redazione di Si Può Fare, vince appunto una Smartbox, peccati di gola per due persone. Dalle prime pagine dei giornali, ripetiamo, rivediamo un po' qualche titolo, visto che ci siamo sentiti quasi mezz'ora fa, a questo punto dall'inizio del programma. Titolo del Corriere, titolo principale: l'America va, Europa bocciata, rivisto a rialzo il PIL degli Stati Uniti, più 4,1%, Obama svolta economica, l'Unione Europea invece perde la tripla A. Il giudizio di Standard & Poor's sull'Unione Europea peggiora, dunque però l'Unione Europea contesta il verdetto, anche se il divario, scrive il Corriere della Sera, è evidente, ed è evidente soprattutto nei dati che riguardano appunto la crescita economica che c'è in America e in Europa non c'è, ostenta. In Italia poi siamo ancora a parlare di recessione, sostanzialmente di contrazione dell'economia. Detrazioni per 1,3 miliardi sulla casa, ecco le novità che arrivano dalla legge di stabilità votata alla Camera, la fiducia. Il voto definitivo ci sarà lunedì. Letta, equilibrio, ma non sono Babbo Natale, scrive il Corriere della Sera. Repubblica, casa, meno tasse per le famiglie, il ministro Delrio annuncia 1,3 miliardi ai comuni. Repubblica che si occupa anche però della fuga finita, presi i killer evasi, trasferito il direttore del carcere di Genova, meno male, era l'ora, chissà cosa lo metteranno a fare, spero che non lo metteranno a dirigere un altro carcere, a far quantomeno, non dico danni, ma dichiarazioni assurde come quella che aveva rilasciato subito dopo l'evasione di Bartolomeo Gagliano. Non sapevamo che avesse commesso degli omicidi, una cosa folle. Vabbè, la notizia l'avete sentita, sono stati presi sia lo stesso Gagliano, che era appunto il primo omicida in permesso premio dal carcere di Marassi, arrestato a Mentone in Francia, a pochi chilometri dal confine, sia Pietro Esposito, pentito di camorra, evaso anche lui con un permesso premio dal carcere di Pescara, si nascondeva a Forlì, anche lui era scappato una volta dagli arresti domiciliari nel 2012. La Stampa invece si occupa ancora del metodo Stamina. Titolo principale: Stamina inefficace, ecco le prove. Vannoni tradito dalle mail del suo pool, non sappiamo se sono cellule staminali. Le cartelle cliniche dell'ospedale di Brescia, nessuno dei 36 pazienti sottoposti al metodo è migliorato. Nuovi controlli del PM Guariniello. La Stampa appunto va avanti con questa sua inchiesta sul metodo Stamina, perché i giornalisti della Stampa sono venuti in possesso di documenti riservati e li hanno pubblicati. Nessun malato migliora, scrive Paolo Russo. Le cartelle esaminate dagli esperti dell'ospedale di Brescia rivelano anche un decesso sospetto. Partiamo dalle 36 cartelle cliniche dalle quali siamo venuti in possesso, quelle che per Davide Vanoni conterrebbero la prova della bontà del suo metodo e che una parte degli esperti del comitato scientifico ha visionato, trovandovi quel che abbiamo letto noi, l'assenza di qualsiasi oggettivo miglioramento delle condizioni dei pazienti. Del resto, la relazione degli stessi ospedali civici del 4 dicembre scorso, assolutamente top secret, parla chiaro. Preme sottolineare che non si ravvisano, il virgolettato, gli ospedali civici, segni di miglioramento in nessuno dei pazienti, salvo quanto riferito dai genitori nel caso di due bambini e direttamente nel caso di un adulto. Quindi su 36 pazienti ci sono il racconto di due genitori e di un paziente direttamente che parlano di loro impressioni soggettive di miglioramento, ma per esempio niente scritto sulle cartelle cliniche, nessun miglioramento riscontrabile, un'assoluta trasandezza nel compilare le cartelle cliniche è denunciata dalla stessa relazione degli ospedali civici. La seconda bomba, scrive ancora la Stampa, è destinata a far deflagrare il caso Stamina e nella mail scambiata pochi giorni fa dalla biologa del pool di Vanoni, Erika Molino, e con il professor Camillo Ricordi, un ricercatore che sta in America, scrive questa dottoressa biologa del pool di Vanoni: non abbiamo mai valutato l'espressione genica delle nostre cellule, non sappiamo se esprimano quei fattori che sono essenziali per mantenere il loro stato di cellule staminali, come dire, non sappiamo cosa iniettiamo ai pazienti. Questo sulla Stampa di oggi. Diamo un'occhiata anche ai giornali dell'area di centrodestra. Libero, la cuccagna di Banca Italia, adesso leggeremo di che cosa si tratta. A proposito delle spese di Banca Italia, il giornale invece scrive: sparo ai politici, spot shock da Santoro. Vogliono il morto, servizio pubblico dà voce ad un antagonista che incita ad uccidere la Santanchè e quelli come lei, di Stefano Zurlo. Invece, a proposito della situazione economica, della legge di stabilità, scrive il giornale di Sallusti: cinque truffe nella finanziaria e porcate negli emendamenti, intanto la tredicesima sparisce, manovra fraudolenta. Ma dicevamo dell'approfondimento di Libero su Banca Italia. Viaggio e cene, notti in albergo con signora, Palazzo Koch ogni primavera paga a tutti i dirigenti, anche se pensionati, una luna di miele da 2000 euro e ha in serbo una raffica di promozioni. Scrive Franco Bechis: la Banca d'Italia offre una vacanzina romana alle consorti dei propri dirigenti delle varie filiali ogni anno in occasione dell'assemblea annuale. Non è che di vacanza vera e propria si tratti, di cosa si tratta? Si tratta del viaggio offerto ai dirigenti e alle loro consorti, anche quelli in pensione, di Banca Italia, due giorni di lusso per partecipare all'assemblea annuale della Banca d'Italia, 4-5 ore, scrive Libero, ad applaudire il governatore in cambio di cenette romantiche e notti a 5 stelle, tutto naturalmente a spese dei contribuenti. L'approfondimento del Fatto Quotidiano invece riguarda le slot machine, gli affari delle slot all'ombra di Alfano e Company. Dietro l'emendamento ricatto ai comuni che ostacolano l'azzardo, scrive il Fatto Quotidiano, c'è tutta la filiera del nuovo centrodestra. Andiamo a leggere. Allora, nuovo gioco, nuovo centro d'azzardo, anziché nuovo centrodestra, scrive il Fatto Quotidiano, NCD, il partito di Alfano, ma anche di Federica Chiavaroli, l'abbiamo letta prima l'intervista su Repubblica, la cui mano ha inserito nel decreto Salva Roma il fatidico subemendamento 24 per punire i comuni che a loro volta puniscono il gioco. Poi c'è Claudio Azzolini, presidente della Commissione Bilancio al Senato, indagato per truffa e associazione a delinquere per i lavori al porto di Molfetta, e infine Alberto Giorgetti, sottosegretario all'economia con la preziosa delega ai giochi. Sono tutti esponenti del centrodestra, scrive insomma in sostanza in questo approfondimento il Fatto Quotidiano, che da quando non c'è più Berlusconi, il nuovo centrodestra ha bisogno di finanziarsi altrove sostanzialmente e quindi punta alle lobby del gioco d'azzardo. Ci spiega una gola profonda e riporta un virgolettato, ma di un anonimo: nella nostra anticamera per tradizione bivaccano i lobbisti del gioco d'azzardo, tutti i giochi, è il caso di dirlo, si fanno da noi e non escludo che alcuni dei miei colleghi siano a libro paga di queste società. Sarebbe un esponente del nuovo centrodestra a parlare. Intanto Alberto Giorgetti, il sottosegretario del nuovo centrodestra con delega ai giochi, nel marzo scorso, scrive il Fatto Quotidiano, a Rimini, alla fiera degli apparecchi da gioco, ha ricevuto applausi a piene mani dalla platea. E Giorgetti in quell'occasione disse: i numeri della ludopatia sono sovrastimati rispetto alla realtà, state subendo una demonizzazione e una denigrazione senza precedenti. Cioè il sottosegretario attuale all'economia Giorgetti, ex AN, attuale nuovo centrodestra, alla fiera del gioco, delle macchine da gioco a Rimini nel 2013, ha detto: la ludopatia non esiste, non dovete essere demonizzati. Peccato che anche le associazioni dei gestori di giochi aderenti a Confindustria poco tempo fa hanno fatto una autocritica dicendo: in effetti c'è stata una esagerazione su questo fronte negli ultimi anni. Quello che scrive il Fatto Quotidiano è che c'è una lobby nel nuovo centrodestra che punta dritto al gioco d'azzardo. Ancora due, anzi una, perché abbiamo poco tempo, notizia del che riporta, ce l'ha soltanto Il Giorno, viene da Cuba ed è una notizia a suo modo storica: rottamate le auto di Fidel, dopo mezzo secolo sì all'import dei veicoli nuovi. Sapete che la particolarità dell'isola di Cuba è che era proibito acquistare auto nuove dall'estero, e quindi tutti meccanici a Cuba, è il lavoro più diffuso sull'isola. Adesso però, scrive Giampaolo Pioli sul Giorno, da poche ore L'Avana ha messo in cantiere un'altra svolta storica, ha tolto l'embargo all'importazione di auto e motociclette che verranno vendute anche dai privati a prezzi di mercato tra 30 giorni. Quindi esportatori di automobili, fatevi avanti, c'è tutto il mercato cubano da conquistare, una svolta a suo modo storica. 8:30, 800 24 00 24, aspettiamo i vostri interventi tra poco dopo la pausa, e aspettiamo anche il racconto di che cosa ha reso bella la vostra settimana nello spirito di Si può fare, il bello dell'attualità che cambia. Il racconto più bello vince una smartbox per due persone tra poco. Si può fare, cronache da un paese migliore. Poi mi osservo nei riflessi di ogni tua faccia, così geometrica. Pianosa, isola gioiello, grazie al lavoro dei detenuti, l'isola dell'arcipelago toscano, dove c'è un famoso carcere prima dismesso e poi riattivato ma con pochi detenuti, potrà rinascere grazie proprio al lavoro a cui verranno sottoposti i carcerati, un centinaio circa. È questo l'accordo firmato dal presidente della regione toscana Rossi e il ministro della giustizia Cancellieri in settimana. Di questo, dell'isola di Pianosa gioiello, ma insomma di questo accordo importante che riguarda il nostro sistema della giustizia, vogliamo parlare con il presidente della regione toscana Enrico Rossi, che salutiamo. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, salve. Voglio fare solo una piccola premessa però, perché questo accordo arriva nella settimana intanto con due casi di cronaca, che sono i due evasi a Genova e a Pescara, poi ripescati, ritrovati, arrestati per fortuna ieri tutti e due, che insomma fanno gridare allo scandalo i cittadini, giustamente, perché dicono: com'è possibile che ci sia gente in permesso, eccetera eccetera, gente come questi qua, dei serial killer eccetera. Però nella stessa settimana il governo ha varato un decreto che va nella direzione delle pene alternative, dell'affidamento ai servizi sociali, del lavoro esterno al carcere, della cura dei tossicodipendenti fuori dal carcere, tutte cose che servono a svuotare le carceri, ma che, io lo voglio dire chiaramente, sono anche un'assicurazione per noi stessi cittadini di una minore recidiva in futuro, perché si sa che tutti i carcerati coinvolti in questi progetti poi tornano a delinquere, a commettere reati molto meno di chi invece passa il suo tempo solo in cella a imparare all'università del crimine. Presidente Rossi, fatta questa troppo lunga premessa, però è doveroso dirlo perché chi ci ascolta fa sempre questi ragionamenti. In cosa consiste questo accordo che avete siglato, che non riguarda tra l'altro solo Pianosa ma l'intero sistema carcerario toscano? Sì, la Toscana, diciamo, ha un sovraffollamento. Io ho potuto visitare le carceri, che è lo stesso che c'è in tutta Italia, insomma, sono 4.200 i carcerati della Toscana, mentre le nostre strutture potrebbero accoglierne 3.200, quindi diciamo sono 950 in più, questo è il numero preciso. Di questi 950, 500 sono tossicodipendenti, di questi 500, 350 potrebbero uscire ed essere ospitati presso le comunità terapeutiche. Io ho detto che va bene, che siamo disposti a finanziare questo trasferimento dal carcere alle comunità terapeutiche, purché ovviamente una volta che questi tossicodipendenti escono dal carcere il loro letto non sia immediatamente riempito da un altro che arriva, perché altrimenti è come svuotare il mare con un secchiello, esatto. Insomma. Ma e quindi all'inizio era su questa proposta, sì, un po' perplessa, poi invece ha capito che è possibile farla. Abbiamo messo al lavoro una commissione, sì. Naturalmente questo comporterà che si spenda 5 milioni di euro in più, però se effettivamente riduciamo di un terzo, come lì sta scritto, il sovraffollamento, beh, abbiamo fatto un'opera di bene. Ecco, io voglio dire questo, perché è un'opera di bene, però ripeto, non è buonismo. Usiamo parole antiche. Ma è anche egoismo, sano egoismo, perché... È sano egoismo perché se non si fa qualcosa, guardi, c'è una cosa che lei non ha detto. E la comunità europea ci va a dare una bella multa di 70 milioni di euro a maggio. Insomma, 70 milioni di euro sono cose che con cui si potrebbe fare tante altre cose. E poi ripeto, non è buonismo, è anche per non pagare la multa, ma è anche per un egoismo, perché questi percorsi fuori dal carcere sono positivi anche per noi cittadini. L'ha detto bene lei, perché la recidiva poi è minore, c'è poco da fare, lo dicono tutte quante le statistiche. Però lei dice giustamente: non svuotiamo il carcere come si è fatto altre volte, magari con degli indulti più inutili. Poi rientrano 4 milioni e mezzo questa operazione. È vero che si dà da lavorare a un migliaio di giovani, quindi tutto ha un suo bilanciamento. E poi guardi, io credo che i cittadini, che giustamente sono molto tiepidi su questi temi, mi piacerebbe una volta portarne una a visitare davvero un carcere sovraffollato. E insomma, come diceva Voltaire, fateci vedere palazzi, fateci vedere le vostre carceri, da lì capirò il grado di civiltà di un paese. Di perché poi di palazzi ne abbiamo bellissimi, compreso il mio della regione, ma in carcere le condizioni purtroppo anche in Toscana sono davvero al limite minimo della decenza, ciò che è anche incostituzionale, no? Non è nemmeno giusto. Poi l'altro punto prevede che portiamo fuori 8 mamme con figli, un'altra delle cose che veramente sono un pugno allo stomaco, è vedere bambini in carcere che non hanno nessuna colpa. E allora abbiamo individuato una struttura, questa struttura sarà sotto sorveglianza attenuata, ci saranno le madri con i loro figli fino all'età di 3 anni. E poi l'altro punto è quello che lei diceva, Pianosa, certo. Pianosa c'era un carcere di super sicurezza, tutte le volte che si rimette lo sguardo a Pianosa e giustamente si pensa a quel carcere, all'inaccessibilità, e poi però da quando è stato tolto il carcere l'isola sta degradando, insomma l'unica cosa viene frequentata durante il periodo estivo un po', e poi a settembre bisogna andare a portare via montagne di rifiuti e ne riparliamo l'anno dopo, insomma primavera estate. Non è che sia molto facile quelle strutture utilizzarle per chissà quali fini, resort o alberghi o turismo, ad esempio durante tutto il periodo invernale, e quindi rischiamo un vero e proprio ritorno al selvaggio dell'isola. Ecco perché garantire una presenza per tutto l'anno di un certo numero di carcerati che fanno attività agricola, che mantengono l'isola, io penso che sarebbe bene, purché, come ho detto con chiarezza anche al Ministro, ma la Ministra è d'accordo, sia consentito l'accesso in strutture che devono avere uno scopo turistico, quindi si faccia una cooperativa che gestisca queste strutture e ai cittadini sia consentito di andarci, soprattutto nel periodo estivo. Insomma, mi sembra un progetto complessivamente equilibrato. Poi c'è un bruttissimo muro che fece costruire il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, insomma, quando firmeremo l'accordo finale chiederemo anche che questo muro... Cioè, che muro, di che muro si tratta? No, è un muro di separazione, evidentemente fatto per il carcere sicuro, insomma, però adesso non ci sta a far nulla. Dall'isola poi è anche difficile fuggire. Noi un'esperienza di questo genere l'abbiamo fatta alla Gorgona. Sì. E alla Gorgona ha dato dei risultati ottimi. Oltretutto ci sono persone che vanno a farci ottimi vini, insomma, ecco, le assicuro che... Vabbè, questo è, diciamo, è un effetto collaterale positivo, ci fa piacere, però vogliamo anche ricordare di nuovo questo aspetto, cioè che i detenuti coinvolti nei progetti, per esempio, di lavoro, come potrebbe essere questo, un centinaio di persone a lavoro a Pianosa, lavori agricoli, lavori di manutenzione degli edifici, di ristrutturazione, generalmente sono persone tendenzialmente recuperate e quindi è un investimento in termini di sicurezza anche per la comunità. Vogliamo dire anche questo, è che... Il punto vero è questo, insomma, il carcere, come qualche volta capita di vederlo, ha detto benissimo lei, inietta nella persona veleno, reazione, asocialità. Se invece, insomma, il carcere che deve essere fatto, io sono per la repressione quando deve essere fatta, deve essere dura. Ad esempio lo scandalo di questi due che sono usciti ed erano omicidi piuttosto insomma identificabili anche come persone pericolose. A questo bisogna stare molto attenti, perché anche la legge Gozzini, che pure ha funzionato, è noto che, insomma, le statistiche dicono che ha funzionato, bisogna che sia applicata poi con molta intelligenza. Ha fatto bene qui la ministra a reagire. Però guardi, insomma, ormai io mi sono un po' interessato a queste cose, bello di fare il presidente e anche di dover cercare di capire un po' le varie situazioni. In tutti i paesi dove il carcere è civile, dove le misure alternative sono addirittura quelle verso cui ci si sta indirizzando, cioè, si comincia a capire dovunque che il carcere duro, anche per chi magari ha commesso reati la cui pericolosità sociale non è altissima, è una misura che rischia di far uscire dal carcere una persona che potrebbe essere recuperata, invece diventa davvero un delinquente pesante. Quindi sono misure giuste dal punto di vista umanitario, ma lei fa bene a sottolinearlo anche dal un investimento in sicurezza per tutti i cittadini. Un'ultima cosa, 30 secondi prima di salutarci, i tempi di questa operazione che riguarda Pianosa, quando potrebbe iniziare? Cioè l'estate prossima si vedranno già i frutti di qualche cosa? Ma gli obiettivi poi bisogna giustamente sottolinea lei, realizzarli. Diciamo, l'obiettivo che ci siamo dati è che fine gennaio, prima settimana di febbraio, deve essere scritto nero su bianco cos'è che facciamo in maniera puntuale. Naturalmente in tutto ciò coinvolgiamo anche il comune, perché poi, insomma, è il comune di Campo nell'Elba che dovrà operativamente gestire Pianosa, dovrà operare concretamente. Quindi, diciamo, se vuole possiamo risentirci, ecco, bravo, nella prima settimana di febbraio. Sappia poi che l'isola noi... è suggestiva, quindi sappia che noi saremo lì, cioè saremo qui, però saremo con voi al telefono e per cercare di capire. Poi magari chissà, più e avanti andremo a fare un salto. Dobbiamo fare anche un viaggio magari, per vedere come stanno le cose. Facciamo una puntata in trasferta. Grazie al Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, buona giornata, per essere stato con noi. Buona giornata. E la notizia, insomma, avete sentito da questo, ha firmato un accordo con il Ministro della Giustizia Cancellieri per ristrutturare tutta l'isola di Pianosa grazie al lavoro dei detenuti, ma anche altre misure per far uscire dal carcere circa 300 tossicodipendenti che accederanno a cure esterne dal carcere. Non lo diciamo più, perché sennò veniamo a noi. È un investimento non solo in termini di buonismo, ma anche di sicurezza per i cittadini. 800 24 00 24, vi aspettiamo al numero verde con il racconto di che cosa ha reso bella la vostra settimana. Tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Yeah. E buongiorno, buon sabato a Carlo Gabardini, naturalmente. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. È il tuo momento. Sì, signori. È il nostro momento. Sono contento. Un po'. Hai sentito? Affannato. Ci hanno invitato sull'isola di Pianosa. Bello, bello. Sarebbe bello andare a fare un paio di puntate in esterna. Volevo infilarmi in quel momento giugno. Dicendo non sono ancora in onda, ma ci sono anch'io. Vengo molto volentieri all'isola di Pianosa. Magari. Molto volentieri. Bello il progetto della Toscana. Speriamo che lo facciano. Assolutamente. Noi facciamo molti annunci. Accordi siglati, ma poi bisogna vedere poi se, perché ma sai, infatti è stato molto bello, perché sì, ha detto ci risentiamo perché l'Italia è il paese degli annunci, in realtà poi tu adesso li vai sempre a ribeccare, perché dopo, ho già sentito essendo l'ultimo arrivato, diciamo, ho sentito già più volte di persone che avevi già sentito, che li tieni d'occhio in qualche modo, dici questa è una buona notizia e va bene che sia una buona notizia, però o rimane una buona notizia oppure non è una buona notizia, quindi ci prendiamo la faccia anche noi, esattamente, infatti mi sembra molto buono. Carlo, eccoci. È il tuo momento. È il mio momento di stanchezza, perché sono dietro ai regali di Natale. Avendo io 4 fratelli, tutti sposati, avendo io 9 nipoti, è veramente un macello. Ma possiamo iniziamo. Aprire anche il file dei suggerimenti per i regali di Natale per Carlo Gabardini. Cacchio. Perché l'altra settimana hai fatto un appello agli ascoltatori, che però per ora non hanno ancora aderito. E poi in realtà è un po' tardi, perché mia mamma, la mia lista di regali di Natale l'ha chiusa intorno al 30 luglio. È quindi di un'efficienza incredibile. Esatto. Ma iniziamo con una brutta notizia, direi, una brutta notizia, diciamo che non posso esimermi dal dare, visto il mio nuovo ruolo, ed è che in Uganda è passata una legge anti-gay che prevede l'ergastolo per gli omosessuali. Ora, diciamo che mentre il mondo si sta aprendo al matrimonio tra persone dello stesso sesso, ieri si è aggiunto il Messico al lungo elenco, ricordiamo sempre che manca ancora l'Italia, certo. Addirittura in Uganda è passata una legge che prevede appunto l'ergastolo per gli omosessuali. Però e hanno addirittura tolto la pena di morte, quindi non è che l'hanno tolta positiva. Loro infatti dicono dovreste essere contenti, perché pensavamo di mettere la pena di morte per gli omosessuali, ma è una legge che era stata fermata nel 2010, perché gli Stati Uniti hanno detto se la mettete noi vi blocchiamo, chiudiamo tutto. Infatti in realtà c'è ancora speranza, diciamo che però questa legge addirittura prevede anche il reato di discutere in pubblico di omosessualità, e è per questo dico che do questa notizia, perché mi vede personalmente coinvolto, perché io, diciamo, avendo fatto coming out sulla prima pagina di Repubblica e avendo fatto adesso un video, credo che ho parlato di omosessualità in pubblico, credo che mi beccherei fino a 25 ergastoli, non lo so, visto che il video La marmellata e la Nutella credo che abbia superato le 29.000 visualizzazioni, se mi danno anche solamente una settimana visualizzazione ho calcolato che sono più di 500 anni di galera, quindi io in Uganda non ci posso fortuna assolutamente che non siamo andare. In Uganda, esatto, va detto, diciamo, come anche il motivo per cui do questa notizia è che in realtà il presidente dell'Uganda non ha ancora firmato la legge, sì. Potrebbe decidere di non firmarla, e noi diciamo chiediamo che non la firmi questa odiosa legge. Detto questo, passiamo a una notizia che ci riguarda, perché abbiamo dato qui noi a Si può fare, perché mi ha fatto ridere che ho letto di Paolo Brunelli, di uno studio immobiliare Brunelli a Bologna, che diciamo improvvisamente si chiedeva come mai nell'ultimo periodo c'era un fortissimo aumento di richieste di affitti per via Fondazza. Evidentemente Paolo Brunelli non è un ascoltatore di Si può fare, perché noi abbiamo parlato di questa via Fondazza, che è la prima social street italiana, che in realtà sta diventando un modello, che addirittura in Argentina, altrove gli chiedono consigli. Cioè, e diciamo, pare, cos'è la social street? Esatto, la social street è un gruppo, diciamo, che si forma su Facebook, legato a una strada o un pochino più ampiamente un quartiere, diciamo, per mettere in contatto che normalmente passano, si sfiorano e non si salutano, mentre così improvvisamente addirittura se uno, diciamo, ha degli avanzi in casa riesce a condividere. E quindi questo immobiliarista non sapeva di via Fondazza, esatto, perché però la buona notizia dentro la buona notizia che noi già abbiamo dato è che in realtà cresce case. Il valore, pazzesco. È cresciuto l'appeal delle case di via Fondazza. Pare che in realtà per avere dei dati certi bisogna ancora aspettare del tempo, quindi non è che già sono saliti i prezzi, però in più c'è sempre un altro pezzo di buona notizia, che quindi non solo aumenta il mercato, in più c'è anche il fatto che essendo una social street molto probabilmente molte contrattazioni avvengono tra persone su Facebook e quindi senza passare dalle agenzie immobiliari. A proposito di Facebook, chiudo con una notizia in reazione ai manifestanti cosiddetti forconi che l'11 dicembre entrarono in una libreria urlando chiudete, dovete chiudere, bruciamo i libri, esattamente. Questo gruppo di creativi che si chiama Fondazione Caffeina, sì, ha creato l'evento che riguarda esattamente oggi, ovvero il 21 dicembre mettiamo un libro nella foto profilo. Per il momento hanno già aderito oltre 50.000 persone. Resto, il social network si chiama Facebook, quindi esatto, è più book, quanto mai appropriato. Cioè via Face e dentro book, esatto. E quindi quindi possiamo rilanciare anche noi questa cosa. Precisamente. Cari ascoltatori, se avete modo di accedere ai vostri social network, magari dagli smartphone, volete cambiare per un giorno la foto del vostro profilo, mettete il vostro libro preferito, magari fate una foto al vostro libro oppure la prendete insomma su internet e così potete aderire a questa iniziativa. I libri non si bruciano, si leggono. Insomma, non ci sarebbe bisogno neanche di doverlo ripetere, se non fosse che in settimana è successa questa cosa. Poi non si è capito bene perché qualcuno ha parlato di roghi. I libri, i roghi non ci sono stati, c'è stato solo un inneggiare a questa eventualità a Savona, sembra, da parte del movimento dei forconi. Insomma, e per chiudere sulla prima notizia che ho dato, essendo noi un paese civile, mi sembra molto buona questa operazione di mettere dei libri al posto della propria faccia. Diciamo, non siamo mica l'Uganda, ecco, vorrei dire che bello. Io non dicevo più non siamo mica l'Uganda perché mi sembrava discriminatorio nei confronti dell'Uganda. Dal momento che loro decidono di fare una legge perché prevede l'ergastolo, anche se uno semplicemente parla di omosessualità, vabbè, diciamo che per fortuna non siamo mica l'Uganda. Oggi va così. Franco da Rimini, buongiorno. 800 24 00 24, il primo ascoltatore di oggi. Buongiorno. Come va? Per cosa ci chiamava? Okay, la chiamavo perché l'altro ieri abbiamo fatto il primo regalo di Natale ad una decina di persone comunicandogli l'assunzione con una nuova società che partirà i primi dell'anno. Momento, quindi lei si sta candidando fortissimamente al racconto di che cosa ha reso bella la vostra settimana. Lei che cos'è, il titolare dell'azienda o lavora all'ufficio personale? Sono uno dei responsabili, sì. Di che cosa si occupa la vostra azienda? Trasporti. Ok. Trasporti nazionali. Trasporti nazionali, ma mica trasporto pubblico locale, no? Cioè no, nel senso... No. Trasporti di logistica, di insomma. Logistica. E avete assunto 10 persone? Le prime 10 le abbiamo comunicato l'assunzione giovedì scorso. Il programma prevede fino alla fine di aprile circa 200 dipendenti e un indotto di un migliaio di persone. Se riesce a farci chiamare da tutti e 10 ha vinto di sicuro, volevo dire. Proprio, se tutti e 10 chiamano entro le 10 di oggi, lei ha il premio in mano. È sicuro, questo sarebbe sicuro. Vabbè, però questo... Posso provare, ma non garantisco. Questo però ha reso bella la sua settimana, Franco, non solo quella dei dipendenti assunti. L'ha resa molto bella, sì, è una bella... soddisfazione personale che coinvolge altri comunque, non certo. Solo io, perché in questi periodi dove la parola d'ordine è licenziare o crisi, voi avete avete assunto 10 persone e avete in progetto di assumerne altre, vedete che insomma qualcosa si muove. Certo, verrebbe da dire, se ci sono aziende addirittura che assumono, se il saldo ancora è negativo vuol dire che ci sono molte di più che perdono e che chiudono e che perdono posti di lavoro, e questo purtroppo lo sappiamo, però abbiamo bisogno di iniezioni di fiducia come questa. Grazie Franco, e noi lo candidiamo. Prego. Sicuramente alla vittoria candidato. Finale, ma c'è ancora tempo per scalzare magari un'azienda che decide adesso di assumerne 11 e vince. Questa potrebbe essere molto bella, una gara rilancio. Buona notizia, tu devi crearne una migliore. Se qualcuno ha in serbo di assumere delle persone, lo dica adesso, esatto. È il momento, così vince il premio. Sentiamo Anna da Teramo. Salve, buongiorno. Buongiorno. Allora, la mia settimana è stata infarcita di una bella cosa che ho fatto praticamente mercoledì qui nello scorso mese lungo la nostra costa adriatica, che sono state un sacco di mareggiate con appunto tutto il ligname e tutta la sporcizia che arrivava dai fiumi, aveva abbruttito tutta la nostra costa, per cui sì. Con un gruppo di amiche siamo andate a pulire per quello che potevamo fare, accantonare la legna, a separare la raccolta differenziata sulla spiaggia, insomma pulire un pezzo di spiaggia. Ah, lei è andata con le amiche, e fra l'altro in pieno inverno, quindi un freddo. Complimenti. Freddo cane, a ripulire la spiaggia. Quante eravate? Eravamo sette. Ma chi ha organizzato donne, tutto? È stata lei a organizzare? Ma poi insomma abbiamo, abbiamo chiesto scusa tra virgolette alla natura per quello che facciamo tutti i giorni. Ma è stata lei ad organizzare questa trasferta? Sì, io sì. Ho detto prendiamo un po' di yoga nel frattempo, poi sarà la nostra spiaggia estiva. Brava, brava. Complimenti Anna. Complimenti Anna. Anche questa è una bella storia. 800 24 00 24. Riprendiamo dopo il giornale radio. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno e ben ritrovati da Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. Allora, se volete così interagire con noi in tempo reale, ci trovate su Twitter, l'account del programma lo sapete, è chiocciola si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi. E il mio è chiocciola Carlo Gabardini. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, per commentare quello che avete sentito, per raccontarci che cosa ha reso bella la vostra settimana o per dirci che avete cambiato la foto sul profilo di Facebook mettendo un libro, perché oggi il gruppo Caffeina ci invita a fare proprio questo. E lotta contro i forconi che dicono di bruciare i libri. I libri si leggono, non si bruciano. 800 24 0024. Abbiamo Rossella da Padova, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Lei per che cosa ci chiamava, Rossella? Io ho acceso la radio stamani appena alzata, ho sentito la frase sull'egoismo, sul fatto che è un sano egoismo essere a favore delle misure alternative in carcere. E questa cosa mi ha allargato il cuore, perché in questi giorni, anche purtroppo in Radio 24, ho solo sentito messaggi che un po' si riallacciavano all'emotività dell'orrore che risvegliano queste notizie. Invece il suo discorso sul sano egoismo, secondo me, è proprio un discorso razionale, non emotivo, che corrisponde alla mia esperienza di 18 anni di carcere come lavoratrice, prima come insegnante e poi cambiando lavoro con una cooperativa sociale. Lei di che cosa si occupa dentro il carcere? Allora, cooperativa sociale, altra città, nella casa di reclusione di Padova, piccola, diamo lavoro a circa 20 persone, ci occupiamo di legatoria ma anche di formare e di dare lavoro nel campo della digitalizzazione, delle biblioteche, degli archivi. Sì. Però oltre a questo, noi altra città, perché da sempre cerchiamo di mettere in comunicazione la città oscura che è il carcere con la città chiara che è il mondo della società civile, e lo facciamo anche attraverso il lavoro, ma attraverso percorsi, ma soprattutto portando il carcere fuori e il mondo dentro. Faccio dei piccoli esempi concreti. Io non credo che noi dobbiamo parlare del carcere come missionari appellandoci al buonismo. Noi ad esempio portiamo dentro le associazioni della terza età, tipo l'Auser. L'associazione che lavora con noi, che è molto importante, Esiti Orizzonti, porta dentro migliaia di studenti, perché noi vogliamo le domande vere, le domande appunto sulla che la gente fa perché non conosce, e vediamo che succedono delle cose straordinarie, che dentro, come diceva prima il presidente della regione toscana, chi entra in carcere entra a contatto con le persone e allora inizia la conoscenza, e quasi sempre quando poi le persone escono dicono: guarda, io ho cambiato completamente idea. Sì. Devo Senta, pensarci, sono in crisi. Rossella, lei ci voleva raccontare qualche episodio in particolare, qualcosa che ha a che fare con l'ultima settimana, vuol partecipare in altre parole anche lei al contest, cosa ha reso bella la vostra settimana, per esempio lavorando in carcere, oppure guardi, una cosa straordinaria, sì? Adesso mi viene in mente, adesso stanno, non ho chiamato per questo, noi abbiamo portato dentro proprio con questa scelta Enrico Vanzini, che è uno degli ultimi testimoni di Dachau, ha 91 anni, sì? E gli abbiamo chiesto e lui ha accettato con piacere di venire dentro a raccontare, ed è stata un'esperienza straordinaria, perché i detenuti io non li ho mai visti così commossi, quella sessantina che ha potuto partecipare, così presi, la persona è stata straordinaria, e alla fine un detenuto si è alzato, guardi, e ha detto: questa è una lezione di vita, la migliore della mia vita, perché noi, lei ci capisce perché sa cos'è la detenzione, noi la capiamo perché siamo in galera, ma noi siamo qui perché abbiamo scelto, abbiamo fatto delle cose, abbiamo fatto degli errori e comunque abbiamo fatto delle scelte. Lei quello che ha patito della sua detenzione è stato invece senza senso, ecco. Grazie, è stato Rossella. Ad esempio questo. Grazie per questo, a voi. Per questo racconto. Tra l'altro, grazie, il carcere di Padova è straordinario per questo. l'ex sindaco Zanonato, adesso ministro per lo sviluppo economico. Era meglio se rimaneva sindaco a Padova o se si occupava di carcere, perché ha contribuito a fare tante cose. Il panettone di Natale, cioè il panificio, pastificio Giotto dentro il carcere di Padova, ci sono tante iniziative. Bisogna sempre ricordarsi che non è che quando si chiudono le porte del carcere chi ha commesso il reato entra dentro, si chiudono i problemi, finisce tutto. Poi bisogna riallacciare il mondo, perché le pene finiscono e queste persone tornano a vivere in mezzo a noi. In Italia la pena detentiva, lo scopo è la rieducazione, non è l'eliminazione o l'isolamento di colui che ha commesso un reato. È sempre e comunque rieducativa. Alberto da Udine, buongiorno. Buongiorno a Radio 24, buongiorno. E agli ascoltatori, buongiorno. Cosa ci volevi raccontare, Alberto? Allora, io ho realizzato questa settimana un sogno, che è stato quello di autopubblicare il mio primo romanzo, allora sono ovviamente caschi a puntino nella giornata dei libri. Ma cartaceo o ebook? Allora, purtroppo la via obbligata per chi tenta in qualche modo di autopubblicarsi è, adesso come adesso, la via più semplice è il formato ebook. Certo. Perché appunto permette di pubblicare a dei costi relativamente. Beh, c'è tutto poi una platea di nuovi lettori. Esatto, può essere anche una cosa ottima in realtà. Sì. Esattamente, sì. Sicuramente tra 10 anni parleremo molto più di ebook forse che... dei libri cartacei, non lo so. Io ho ancora un'affezione per il cartaceo, devo confessare una debolezza, un'anticaglia. Non vorrei definire anche te un'anticaglia, ma anche io. Sì, però sono un'anticaglia. Sicuramente si cambia in questo senso e quindi va bene. Complimenti, Alberto. Come si chiama il romanzo? Allora, il romanzo si intitola Il Ponte del Diavolo ed è, mi ha suggestionato questo manufatto, questo Ponte del Diavolo, che è stato costruito circa 1000 anni fa in una cittadina vicina dove risiedo io, che è Cividale del Friuli. È una cittadina turistica al di fuori dei circuiti, dei grandi circuiti, ed è diventata di recente patrimonio dell'UNESCO per il sito dei Longobardi. Ma di cosa parla questo libro? Dici qualche cosa per invogliarci a leggere il libro, perché già sito dei Longobardi, secondo me non ci sono le file, per scaricarlo. Assolutamente no, non tratta quello. Questo ponte mi ha sempre suggestionato questo nome, il Ponte del Diavolo, da quando ma di cosa parla? Quindi hai scritto un libro che parla di... Il libro parla di un omicidio, viene ritrovato il corpo di una donna impiccata sotto questo ponte, e attorno alla risoluzione di questo omicidio, di chi è quella persona. Non raccontare niente, non mi dire come finisce, che sennò io non lo prendo. Se gli hai chiesto di parlarne. La prima intervista, io direi che la buona notizia... Mi fermo qui. È anche che hai presentato per la prima volta il tuo primo romanzo, in radio nazionale. Infatti. È un'occasione non da poco. Va bene, Alberto, grazie. Grazie mille. Complimenti alla provincia di Udine. Tra l'altro, occhio, perché c'era anche Il Diavolo al Ponte Lungo di Bacchelli, quindi il Ponte del Diavolo. Qui si rischia. Miseria, occhio al titolo. Adesso facciamo il traffico, poi torniamo tra l'altro. Perché con gli ebook è così. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Freedom and justice. Questa è una bella scelta musicale, Better Place, però abbiamo lasciato prima l'ascoltatore commentando la questione dell'ebook, perché tu hai detto con l'ebook funziona così. Sì, funziona così, nel senso che siccome non hai un editore e nemmeno un editor, anche sui titoli è molto pericoloso, nel senso che uno dice guarda, ho scritto un libro bellissimo, si chiama Viaggio al termine della notte, di solito se vai da un editore ti dice guarda Ciccio, esiste una versione abbastanza conosciuta, ti consiglio come minimo di chiamarlo, Viaggio al termine della notte 2 per chissà esempio. Però se invece anche gli editori di ebook, perché poi sono no, in realtà che, ci sono anche ci i sono veri editori. E proprio poi editori ci sono dei casi in cui proprio te lo fai completamente da solo senza editore, allora in quel caso veramente incorri i rischi come questo. Vabbè. Sì. Questa era una precisazione che regaliamo ad Alberto da Udine. Adesso invece vogliamo parlare Better Place, di un posto davvero bello, si chiama Talent Garden. Radio 24 tra l'altro se ne è già occupata, molto di più di un semplice spazio di co-working, un tema che a noi di Si Può Fare sta molto a cuore. Non è solo condivisione degli spazi di lavoro, ma è proprio creatività allo stato puro. Un progetto nato l'anno scorso a Brescia, dilagato in molte città italiane tra cui Milano, premiato recentemente a New York, inserito nella cinquina tra i 5 migliori progetti a livello internazionale da un premio appunto newyorkese. Noi abbiamo convocato, lo salutiamo volentieri, Matteo Penso di Talent Garden. Buongiorno Matteo. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, intanto complimenti, perché insomma il successo di questa iniziativa è straordinario. Decine e decine di città che vogliono affiliarsi, aggregarsi, e poi questo riconoscimento a New York in questo premio. Chi è andato a, oppure non è andato nessuno a farsi? Sì, siamo andati. C'era Davide e c'era il nostro socio newyorkese, che poi si occuperà dello sviluppo della sede di New York. Ah, avete anche un socio newyorkese? A questo punto sì. Certo. Assolutamente. Quindi sbarcate in America, poi con un nome così, Talent Garden. È un po' Faccio cose, vedo gente. Te lo ricordi, Carlo, il film di Nanni Moretti? Assolutamente sì. Cioè, questo mondo qua è Faccio cose, vedo gente, però non è Faccio cose e perdo tempo, ma realizzo delle cose straordinarie. Cioè, è questa vicinanza che crea... cosa crea, Matteo? Anche perché devi salvarti a questo punto, perché Faccio cose, vedo gente non è mai stata una cosa particolarmente, sì, esatto, positiva. Quindi diciamo, tirati fuori dall'angolo da solo, perché sennò Alessio ti rimette nell'angolo. Grazie per avermi messo, tra l'altro. No, il Faccio cose è assolutamente vero, nel senso che Talent Garden segue un modello per cui non è semplicemente uno spazio dove aziende diverse condividono gli uffici, è piuttosto un modello di campus digitale, dove cioè aziende che operano nel mondo dell'informatica, sul digital o sui media, possono lavorare insieme e fare cross-pollination. Quindi cosa, scusa? Cross? Aziende che si occupano di campi assolutamente diversi, sì, come ad esempio... No, ma fino all'italiano l'abbiamo seguito, è cross-pollination che ci agita. Ci sto arrivando. Un'azienda che si occupa di fotografia digitale, sì, un'azienda che si occupa di viaggi, possono ad esempio creare un nuovo prodotto insieme dove il viaggio viene raccontato attraverso fotografia digitale. Quindi esperienze che prima mancavano, o capacità che prima mancavano in ognuna delle due aziende, grazie alla condivisione del metodo di lavoro, dell'ispirazione e perché no anche delle persone che ci lavorano, riescono finalmente a portarlo alla luce. Sinergia. Ecco, quindi no, perché cross pollination ci ha colpito. No, però è bello che l'hai spiegata così bene, perché sennò magari per molte persone pensano che il co-working sia semplicemente condividere una stampante, cioè si compra una stampante in due, sì, e buona. Invece in realtà è una roba che è molto legata anche a come l'inglese, che riesce in due parole a dire quello che poi Matteo ha dovuto dire in italiano in due minuti. E questo purtroppo è una lingua più precisa, è la forza dell'inglese. Io faccio quasi una crociata contro, perché mi piacerebbe che si parlasse solo in italiano, perché è una lingua bellissima. Ma very well. Sì, yes. Very well, un tubo. Però l'inglese ci aiuta. Voi vivete poi in un'atmosfera che è globale per definizione, quindi l'inglese credo che sia nel vostro DNA. Ci puoi raccontare anche dei casi, non so, di aziende o di startup, insomma, che sono nate proprio lì da voi, passando da voi, qualche episodio, anche caso concreto, Matteo? Ma assolutamente, anche perché in Italia c'è un evento che ormai avviene in ogni città, e dove abbiamo un Talent Garden cerchiamo sempre di ospitarlo lì, che è lo Startup Weekend, dove persone con un'idea o con voglia di fare, come dicevate voi prima, si trovano insieme per poter lavorare a un'idea di azienda e perché no lanciarla. E qualche settimana fa, a fine di settembre, ci sono stati ad esempio due casi in occasione dell'apertura del Talent Garden di Genova, dove le aziende poi si sono costituite e sono oggi ospitate là. Oppure ci sono esempi anche a Milano, come Wanderio ad esempio, che è nato dall'idea di ragazzi che hanno cercato un modo di ottimizzare gli spostamenti. Quindi non è semplicemente il che metropolitana prendo per andare da un punto all'altro di Milano, ma se io voglio andare da Milano a Pavia e voglio spendere il meno possibile, oppure consumare la minor quantità possibile di anidride carbonica, oppure arrivarci più velocemente, l'algoritmo di Wanderio mi permette di catalogare tra mezzi pubblici, mezzi privati o altro tipo di mezzi, come ad esempio il taxi, qual è il percorso migliore per arrivarci, agglomerando tutte queste informazioni e dandomi poi le istruzioni su come passare da un mezzo all'altro. Quindi parto col pullman, poi vado sul treno, poi prendo il taxi e poi faccio un percorso a piedi. Bellissimo. Questo è un esempio, no? Ma c'è una motivazione specifica, diciamo, che hanno dato a New York per il motivo per cui vi hanno dato il premio? Cioè, vanno spiegato come mai hanno dato a voi il premio? Allora, innanzitutto va spiegato che questo premio fa parte di un'iniziativa dove la città di New York mette a disposizione una quantità di denaro al fine di favorire e incentivare lo sviluppo del mercato di lavoro in una parte molto precisa della città, che è quella di Lower Manhattan, quindi la parte meridionale di Manhattan. Ah, quindi non è solo un premio, è quasi una commissione, se vogliamo. Assolutamente, è questa iniziativa del comune di New York volta proprio a sviluppare il business. Eh no, scusa, perché sai, in Italia siamo abituati che il premio è una targa di ottone che ti viene lanciata in testa di solito. Forse invece avevo detto male io, forse avevo tradotto male dall'inglese, perché ovviamente non capisco l'inglese. No, l'avevi detto giustissimo, però è interessante questa cosa, che in realtà oltre ad essere un premio, è infatti forse era quello che stavi dicendo all'inizio, cioè che avete adesso dovuto aprire una filiale a New York, perché loro non è che dicono bravi, complimenti, arrivederci, ma dicono siete così bravi che noi vogliamo lavorare con voi, perché siete un'eccellenza. Questo è molto l'obiettivo bello. Di New York è proprio creare un polo che possa fungere da attrazione per il talento straniero, quindi italiano ma anche europeo o sudamericano, che ha voglia di aprire nuove attività su New York. Però senti, non scapperete, Matteo, dall'Italia, sì. Vero? No, non ci abbandonate. No, anzi, stiamo già programmando le nuove aperture per quest'anno e l'anno prossimo. Dove in Italia, per esempio? La prima in ordine temporale sarà Cosenza ad aprile. Oh, salto, Cosenza è un territorio che ne ha apertura nel sud Italia. Bravo, che ne ha particolarmente bisogno. Senti Matteo, prima Carlo Gabardini citava, dice, non è solo la condivisione di una stampante, uno spazio come quello dei Talent Garden. E ovviamente abbiamo capito che non è questo, però adesso si parla molto della stampante in 3D. Questo sì che è una cosa che condividerla anche proprio concretamente cambierà le cose. Ci vuoi dire qualcosa su questa cosa che ci incuriosisce molto e di cui si comincia a parlare, ma che sembra davvero la nuova frontiera? Se vuoi, la magia della stampa in 3D è che noi siamo abituati a ragionare tenendo molto separati gli atomi dai bit, quindi gli atomi della nostra vita reale dai bit della vita digitale. La stampante in 3D trasforma i bit, quindi qualcosa che tu hai sul tuo computer, in qualcosa che è fatto da atomi, quindi qualcosa che puoi tenere in mano. E questo è utilissimo, ad esempio, per prototipare. Quindi se tu hai in mente un nuovo prodotto fisico, ad esempio una nuova custodia per l'iPhone, diciamo, sì. Tu lo puoi prototipare attraverso un software sul computer e poi stamparlo attraverso una stampante 3D e effettivamente usarlo sul spendendo telefono. Molto meno di quello che spendevi prima, dovendolo fare magari in qualche azienda con dei costi naturalmente più alti. Assolutamente, ed è anche una questione di tempi. Un conto è preparare un modello da portare a un fornitore e poi stampare, un conto è averla a disposizione, proprio a fare due passi, arrivare alla stampante e prendere il tuo prototipo. Si accorciano anche i tempi. Va bene Matteo, complimenti per tutto quello che fate, per il premio e per questo sbarco non sulla Luna ma a New York. York, il prossimo, appena la Luna avrà un governo che può commissionare qualcosa a Talent Garden, secondo me andranno anche sulla Luna. O forse in Cina conviene andare e poi con i cinesi andare sulla Luna. Potrebbe essere il prossimo passaggio, visto che appunto i cinesi tra poco sbarcheranno anche loro. Grazie Matteo Penzo di Talent Garden. Grazie mille, buona giornata. In bocca al lupo e complimenti ancora per tutto quello che fate. Hai visto? Che bello. Voglio entrare anch'io in un Talent Garden. Bisognava forse chiedergli quali sono i requisiti minimi per far parte di un... No, secondo me entrare ti fanno entrare, poi dopo pochi secondi ti cacciano fuori, perché se non porti un'idea. Pensavo fosse entrare ti fanno entrare, è uscire che non ti fanno più, e allora era peggio. Ti mettono a fare il caffè, non lo so. Fulvio dalla provincia di Sondrio, buongiorno. Sì, buongiorno. Innanzitutto complimenti per la conduzione, siete veramente due personaggi garbati, intelligenti, è un piacere davvero. Grazie mille. Anche Gabardini garbato? Perché lui urla quando parla al microfono. Sono molto contento. È gradevole e piacevole anche lui. Grazie mille, veramente, perché di solito dicono grazie, ciao, volevo salutare Alessio, invece adesso il fatto che diciamo includi, ne sono veramente felice. Siete bravi tutti e due, veramente, è un piacere ascoltarvi. Fulvio, cosa volevi raccontarci? Allora, guarda, io volevo raccontarti che l'estate scorsa io ho seguito la vostra iniziativa Disperati Mai, che dava voce in pratica a imprenditori in crisi. Sì. Ascoltando quelle trasmissioni mi hanno veramente molto colpito, e dato che sono il regista di una piccola filodrammatica che lavora da una decina di anni per passione, naturalmente, ho deciso di farne una commedia, di raccontare la storia di 100 imprenditori che vivono il dramma che voi avete ben raccontato e ben spiegato. Sì, noi ricordo agli ascoltatori che magari per Radio 24 fece una campagna, non ricordo esattamente che periodo fosse, l'anno scorso, sì. O forse era proprio il 2013, era proprio quest'anno qua. Sì, esatto, Disperati Mai, insomma, in seguito anche ai suicidi che c'erano stati, nel mondo del lavoro, imprenditori, ma non solo, una campagna di tutta la radio che vide impegnati soprattutto in programmi economici, ma un po' tutti. E quindi, partendo da questo, Fulvio, ci stavi raccontando? Ecco, io ho iniziato a scrivere una storia che nella quale voleva esserci tutto. Partiva proprio da questi racconti. E adesso questo spettacolo? Ecco, questo spettacolo andrà. Ho chiamato perché questa settimana, dopo tutti questi mesi di prove, abbiamo finalmente finito. Avete debuttato? Abbiamo capito che funziona e a gennaio inizieremo. Ah, va bene. Dov'è la prima messa in scena? La prima è a Tirana, al Cinema Teatro Minion. Il titolo è Forza. Dove, scusi, a Tirana? Tirano, in provincia di Sondrio, va bene. Della Svizzera. Sai, magari a Tirana. Esatto, partivano tutti. Prima presentazione all'estero. Va bene, grazie Fulvio, in bocca al lupo per questa prima. Grazie mille. A Tirana, da Tirano, a Tirano. Tirano. Enzo dalla provincia di Genova, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, cosa ci vuoi raccontare, Enzo? Ma guarda, io faccio il giornalista e quello che ha reso bella la mia settimana è stato un servizio che ho realizzato su un ragazzo di 24 anni affetto da una malattia rara che ha scritto un libro di fiabe e ha deciso di devolvere il ricavato in beneficenza. Lui si chiama Michele, sì. Il titolo del libro è Il Principe Michele e è stato adottato quando aveva pochi mesi, era stato abbandonato alla nascita. Lui è affetto dalla sindrome di Lesch-Nyhan, che è una malattia rara con effetti piuttosto pesanti, limitazioni nel linguaggio, movimenti, e però nonostante questo è riuscito a scrivere questa favola con l'aiuto di sua cognata che gli ha prestato le mani. In sostanza lui partiva da una frase o da una parola, la cognata gli faceva una domanda, lui sviluppava la trama, rispondeva, ad esempio diceva principe, lei gli diceva cosa fa? Cavallo. Allora il principe va a cavallo, dove? Castello, lui diceva, e quindi il principe va a cavallo. Quindi è stata sviluppata la storia tutta così, domanda e risposta, perché queste erano le possibilità espressive di Michele, che ha scritto questo libro, Il Principe Michele. Dov'è possibile eventualmente acquistarlo? Ma è possibile acquistarlo nelle librerie e anche attraverso poi l'associazione alla quale lui devolve metà del ricavato, perché anche questo è bello. Metà del ricavato lo devolve l'associazione Lesch-Nyhan Disease, che si occupa appunto di ricerca contro questa malattia, e con l'altra metà adotta una bambina a distanza in Africa, Giuliana, della Tanzania, di 6 anni, e quindi anche questo è un aspetto positivo. È stato presentato il 17 martedì scorso. Ha delle bellissime illustrazioni di un grande disegnatore, si chiama Maurilio Tavormina, che ha frequentato la scuola del fumetto di Chiavari. Enzo, l'ultima cosa che ti voglio chiedere è questa: tu per chi lavori? Per chi hai scritto questo articolo? Io sono un giornalista della RAI. Ah, hai fatto il servizio per la RAI Ligure? Sì, tra l'altro andrà in onda Sì? Se posso dirlo, sì? A mezzogiorno 25 sul settimanale abbiamo un programma. Perfetto. Che ha questa cadenza appunto sabato, e c'è questa storia, intervista. Va bene, va bene, Enzo, grazie ottimo, mille per questo intervento mille. Oggi devo dire che è davvero dura, poi assegnare insomma la smart box, che è una cosa piccola rispetto alle cose che sentiamo. Ma è bello quando è di gola, vuol dire che ci sono tante belle sono notizie, tante belle storie. Sarà dura a scegliere. 800 24 00 24, torniamo tra un attimo. Sentirsi con un papà senza santi da pregare, si può fare. Ed avere tanti soldi da poterseli rubare, si può fare. 800 24 00 24, aspettiamo le vostre chiamate per commentare quello che sentite, ma anche per raccontarci che cosa ha reso bella la vostra settimana. Si vince una smart box per due persone, peccati di gola. Oggi si vince questo. È davvero difficile oggi, Carlo, decidere, molto, perché hanno chiamato molto delle persone. Senti, Anna da Teramo, che è andata con le amiche a ripulire la spiaggia dopo la mareggiata, a togliere il legname, incredibile. Franco da Rimini, sì, che ha appena assunto 10 persone, aveva mandato la lettera e al quale abbiamo anche chiesto di far chiamare tutte le 10 persone assunti. Poi ha chiamato Fulvio dalla provincia di Sondrio, che metterà in scena uno spettacolo con le storie che abbiamo fatto noi di Radio 24, Disperati Mai, sugli imprenditori in crisi, in difficoltà. Enzo da Genova, che anche lui si ha vette altissime, ha fatto un servizio per la Rai Ligure su un ragazzo che ha una grave malattia di 24 anni, Michele, che ha scritto un libro, i fondi andranno tutti in beneficenza, è Principe Michele, quindi se siete in Liguria compratelo questo libro. È difficile davvero oggi decidere, però poi la decisione la dovremo trovare. Tempo. C'è ancora poco tempo, venire. 800 24 00 24, a tra un attimo. Non conta dove vivi, né mi interessa la tua età. Sei un cane, un maiale, una mucca, una capra, che importanza ha? Tutti hanno una richiesta, ovviamente è per me. Da loro la risposta, che ora sto per dare a te. Se scaverai un po' più a fondo, scoprirai chi sei. Se scaverai un po' più a fondo, ti sentirai ok. Cerca di conoscere chi sia il vero te. Sarai felice anche se scaverai. Se scaverai un po' più a fondo. Cos'è? Il principe, la principessa e la ranocchia, film di Disney. C'è una persona che ha scavato molto a fondo, anche troppo forse a fondo, ma scavando a fondo tra i rifiuti ha scoperto rifiuti illegali, perché lui era un operaio che lavorava in questo settore, ha scoperto talmente tante cose che è stato licenziato dalla sua azienda, però è stato premiato da Legambiente come l'uomo ambientalista del 2013. Ed è davvero denunciati. Una storia incredibile. Adesso ce la facciamo raccontare da lui. Salutiamo Domenico Lestingi, buongiorno. Buongiorno Domenico. Io ho raccontato per sommi capi quello che insomma le cronache hanno riportato della sua storia. Domenico, lei lavorava in che azienda nella provincia di Bari? Allora, io ho lavorato per circa 25 anni nella Lombardia Ecologia. Sì. Praticamente i primi 4-5 anni, siccome la discarica era chiusa, diciamo, mi impegnavo alle bonifiche e sì, non ho notato nulla di anomalo. Poi quando ha avuto l'attività, giorno per giorno c'erano delle irregolarità. Ma scusi, in che territorio siamo? In provincia di? Conversano, provincia di Bari. Di Bari, esatto. Conversano Mone, ma la sua era un'azienda pubblica o privata? Privata. Privata. E a un certo punto lei che cosa ha pensato, che cosa ha notato che non andava? Cosa si è messa a fare? All'inizio erano qualcosina, diciamo, non è che riuscivo a captare tutte le cose, le anomalie che succedevano, e protestavo. Poi man mano che si andava avanti le cose peggioravano. Ma cosa? Ma che tipo di anomalie? Perché bisogna dire anche una cosa che non ho detto, che allora, questo gesto ha permesso alla magistratura, mi scusi Domenico, lo dico io perché lei non ha ancora detto, di aprire un'indagine sull'ipotesi di disastro ambientale per la discarica sita in Contrada Martucci, perché c'era proprio qualcosa che non andava, Domenico. Allora, praticamente non è stato ambientato il suolo come era prescritto dalla legge, perché bisognava mettere l'argilla, sì, e non è stato fatto. Per evitare che colasse tutto sotto, certo. Sì, non veniva saldata la guaina. poi ipercolato invece di smaltito in discariche specializzate veniva smaltito nei terreni e dove veniva coltivata la frutta e la verdura, sì. E poi i fanghi speciali, rifiuti speciali non autorizzati, amianto, ma di tutto arrivava, fino a che abbiamo cominciato anche a sentirci male. E poi un giorno io queste cose qui le ho sempre fatte presente a chi pensava che mi potesse aiutare, ma chi? Non ho ottenuto niente, a uomini politici o a uomini di legge, però erano più che altro segnalazioni le mie. Ma lei ai capi della sua azienda queste cose le diceva? Sì, ho protestato più volte, tant'è che poi mi hanno allontanato da un cantiere, perché non abbiamo solo Conversano, ma diverse discariche sparse per l'Italia. Ma lei adesso non lavora più? No, non lavoro più, mi hanno licenziato. Con che motivazioni? Perché ho gravi lesioni all'immagine aziendale. Perché naturalmente lei dicendo queste cose aveva secondo loro offeso l'immagine aziendale. Però l'immagine aziendale, però bisogna accertare se siano vere o non vere, nel senso che se sono vere c'è poco da offendere, lei ha salvato il mondo, quindi... Però evidentemente qualcosa di vero ci deve essere, se no Legambiente, che ha un nome importante, non avrebbe speso premiandola e la magistratura non avrebbe aperto un'inchiesta. A che punto è questa inchiesta della magistratura? Praticamente stanno tre alti funzionari della regione Puglia indagati, sì. Poi ci sono diversi ingegneri responsabili di cantiere, perché ciò che hanno trovato, perché adesso è in corso l'incidente probatorio, ciò che hanno tirato fuori di più di quello che io denunciavo, perché sì. Io non è che sono un chimico, io ho le cose che riuscivo a capire, però c'è molto di più, di peggio. Hanno sequestrato 7 discariche per il momento, stanno continuando a indagare, a breve dovranno, è tutto sotto sequestro per ora, sia le vasche sia terreni, perché c'è un vigneto su rifiuti praticamente, cioè rifiuti e rifiuti sopra. Voglio dire una cosa, Domenico, mi scusi se la interrompo, la cosa è questa, insomma, naturalmente c'è un'inchiesta, quindi non sappiamo qual è la verità, almeno giudiziaria, lo sapremo tra un po', però certo non vogliamo attaccare l'azienda che ha licenziato Domenico a prescindere, noi vogliamo sentire la sua storia. Perché ci interessava il fatto che insomma il suo impegno è stato premiato anche da Legambiente, adesso magari ne parliamo, però la cosa da dire è questa: se una persona solleva dei dubbi e dice guardate che secondo me qua state facendo le cose illegali, i rifiuti non sono stati messi correttamente, questo non dovrebbe offendere l'immagine dell'azienda, l'azienda dovrebbe collaborare semplicemente secondo me a risolvere questa cosa qua. Ma soprattutto c'è un'inchiesta adesso, ecco. Quindi c'è l'unica cosa che non si può dire è che chi ha denunciato queste cose qua fosse in malafede, cioè, questa è una certezza, c'è comunque un'inchiesta, certo. Quindi... magari poi l'inchiesta potrà anche risolversi in un non nulla, succede in Italia, però non è un buon motivo per infilare la testa sotto la sabbia, perché questo problema dei rifiuti è una cosa drammatica, diciamolo, la terra dei fuochi non è l'unico posto, l'Italia è piena di schifezze come queste e se c'è uno che lo dice e lo dice per tempo, non bisogna licenziarlo, bisogna farlo dirigente, bisogna premiarlo, bisogna metterlo in cima a tutti gli altri, è proprio il contrario quello che sta avvenendo, così. Ma ho detto quello che pensavo. Non gli ho detto cosa mi è accaduto, nel momento in cui parlavo non mi davano ascolto, tant'è che una mattina sono andato in cava, ho preso un escavatore a piedi, cioè praticamente l'ho preso in prestito, mi sono allontanato per un paio di chilometri, ho distrutturato i rifiuti, sono arrivati cioè, i giornalisti ma anche i carabinieri, mi hanno arrestato e processato per direttissima. Vabbè, ma non ci racconta il pezzo più bello della storia? Cioè lei ha preso un escavatore, è andato, visto che non l'ascoltavano, ha dissotterrato i rifiuti e ha chiamato la stampa? Sì, ho chiamato la stampa e dopo hanno aperto l'inchiesta, perché io prima di prendere... Hai capito come bisogna fare per aprire un'inchiesta? Bisogna prima che qualcuno perde il posto di lavoro facendo un gesto del genere, perché se vai per i canali normali non ti caga nessuno. Sì, è che per come ce la stava pazzesca. Raccontando prima sembrava semplicemente che lei ogni tanto dicesse ma mi sembra che ci sia un dubbio, invece ha fatto un gesto eclatante. Questo è quello che ha fatto prima, poi non succedeva nulla, allora si è mosso. Ma scusi, i suoi colleghi in tutto questo? Ma praticamente nel nostro ambiente non è che c'è gente buona, voglio dire, i miei colleghi sono stati amareggiati anche loro, perché i panni sporchi si lavano in famiglia, ma adesso cominciano a credere che ho fatto bene, perché ciò che stanno tirando fuori è è spaventoso. Si lavano in famiglia, se riguardano solo la famiglia, se riguardano dei rifiuti tossici che possono ammazzare o far sì che ci siano malattie terribili per generazioni, forse la famiglia la lasciamo anche stare. Facciamo un appello dalle parti di Bari, se c'è qualcuno che vuol dare lavoro a Domenico Lestingi, che con il suo gesto ha contribuito a aprire questa inchiesta. Forse è bravissimo con l'escavatore, peraltro, cioè, per dire, se qualcuno ha bisogno di qualcuno, diciamo, che guidi bene l'escavatore, secondo me Domenico è fatto ma apposta, ma tutta la vita. Io scherzo, perché l'intera di Bari, questa azienda ha le mani molto molto lunghe, ne ho trovati già tre di lavori, li ho persi, non so se hanno per loro interferenze o per non ne sono sicuro. Ma ora vedrà che il vento cambia davvero, perché adesso c'è Lega Ambiente che la sta appoggiando, c'è Radio 24, si può fare. E speriamo che le cose cambino. Intanto, Domenico, grazie per essere stato con noi. Mille. In bocca al lupo per le sue vicende personali, per le inchieste. Non so se la coinvolgono. Io spero che ritroverà presto un lavoro. Un gesto incredibile, quello di Domenico Lestingi. È incredibile perché, ripeto, per i canali normali non era riuscito a far aprire nessun tipo di inchiesta, di approfondimento. Ha dovuto andare con l'escavatore, chiamare la stampa, poi ha perso il lavoro, è stato processato, è una cosa pazzesca. Però probabilmente tra 10 anni diremo meno male che questa persona ha fatto questa cosa, perché ha contribuito. Si farà un film sulle Stingi, spero. Sì, eh sì. 800 24 00 24, traffico. C'è niente che non si possa fare. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Abbiamo un altro ascoltatore, Bartolomeo, che ci chiama da Genova. Buongiorno Bartolomeo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e buon Natale, Radio 24. Grazie. È Babbo Natale lei? Lo ero. Come lo ero? Ha perso il posto. Ho riposto gli abiti. Sì. Un paio di giorni fa. Ah. Una settimana felice, o perlomeno sono veicolo di aver dato, sì, una settimana felice, parlo a nome anche di tutto il gruppo di lavoro, sì, ad altrettante 150 famiglie. Perché? Perché io sono un volontario. Allora, da pensionato ho deciso di buttarmi nel sociale, sì, e quindi faccio parte del gruppo del centro di ascolto italiano. Oddio Bartolomeo, troppo. Proprio su ascolto abbiamo smesso di ascoltarla. Non la sentiamo. Allora, Bartolomeo fa parte di un centro di volontariato. Di ascolto, sì, eccoci, sì, di ascolto, sì, sì. Bartolomeo, non abbiamo moltissimo tempo perché siamo in chiusura. Lei che cos'è che ha fatto esattamente questa settimana nel suo centro di questa volontariato? Questa settimana, allora, noi siamo riusciti a confezionare 150 pacchi alimentari. Sì. Con tutte, diciamo, quelle cose che sono il Natale, che servono per mangiare, appunto, e in particolare per il Natale secca e quant'altro. Va bene, no. Bartolomeo, grazie. Grazie. Lo seguo un po' brutalmente, però siamo quasi in chiusura, abbiamo capito. Comunque anche lei si candida alla vittoria del premio, la Smartbox per due persone. Adesso tra qualche minuto vi sveleremo chi ha vinto. Questo, caro Carlo Gabardini, è l'inno delle Universiadi di Trento, del Trentino di quest'anno. Lo sapevi? No, che questo fosse. Sapevo che c'erano le Universiadi, non conoscevo l'inno. Era questo. Adesso lo sai. Con Radio 24 scopri si imparano delle cose tante nuove. Tante cose. Le Universiadi, che cosa sono? Universiadi invernali, credo. Lo chiediamo a Filippo Bazzanella del Comitato Organizzatore Universiadi del Trentino. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per l'ospitalità. Buongiorno. Non è che l'abbiamo chiamata per dirci cosa sono le Universiadi, perché però ce lo può ricordare, perché non è che sono come le Olimpiadi che sono più note. Oggi che le chiudiamo ve lo ricordo, no? L'Universiade è una sorta di Olimpiade, sì, con gente che ha studiato. Riservata? No, non che ha studiato, che sta studiando, perché sono atleta e anche studente universitario. L'unico vincolo è quello di essere, oltre ad atleta, anche uno studente iscritto all'università. Ci sono 3.500 più o meno atleti, sì, tecnici da tutto il mondo, più di 50 paesi. È a cadenza biennale, e quindi estiva e invernale. Quest'anno è toccata a noi, anche se siamo subentrati, Trentino è subentrato a Maribor, che le aveva segnate 4 anni fa e che non è riuscito a costruire. Ma Zanella, scusi, parli un pochino più lontano dal microfono, perché altrimenti sì, sentiamo, sì, un po' va forte. Bene. Ma sta però facendo la maratona forse, no? Il motivo per cui l'abbiamo chiamato è che queste Universiade è quasi completamente, o senza il quasi, ad impatto zero, cioè loro hanno cercato di azzerare completamente l'impatto, diciamo, di inquinamento, di emissioni nocive nell'atmosfera, perché ogni evento, anche andare a comprare il giornale forse, certo, se si va con la macchina, soprattutto l'ascensore, pensa la macchina, un evento sportivo, dei spostamenti, alberghi, si consuma, eccetera. E voi che cosa esattamente, in che modo avete reso a impatto zero l'Universiade? Devo dire che intanto l'Universiade appunto si distingue per il fatto che c'è il coinvolgimento dell'università, quindi abbiamo sfruttato l'università, l'università è partecipe del comitato per attivare tutta una serie di progetti di ricerca applicati poi sull'evento. Uno di questi progetti è quello di abbattimento della CO2 attraverso degli atti concreti, tipo l'abbassamento del riscaldamento di un grado nelle case, nei negozi, negli uffici, piuttosto che gli spostamenti con le automobili, con un sistema di carpooling, piuttosto che tutta una serie di altre azioni che abbiamo fatto, evidentemente costruito in qualche mese, coinvolta la cittadinanza, sì, e tutta l'opinione pubblica, e stiamo arrivando ad ottenere il risultato che eravamo prefissi, insomma. Diciamo che tra l'altro l'Universiade finisce oggi, oggi questa sera a Canazei, Val di Fassa, sì, ci sarà la finale del torneo di hockey maschile, sì, e a seguire la cerimonia di chiusura dopo 15 giorni quasi di lavoro a manetta. Che obiettivo vi eravate dato? Cioè, è possibile fare un confronto tra l'obiettivo, diciamo, di impatto zero e quello che avete realizzato? Sì, a parte l'impatto zero, noi avevamo un progetto sul 2017 che evidentemente non era andato a buon fine di candidatura, sì, e il progetto prevedeva la ristrutturazione degli impianti sportivi per renderli autonomi dal punto di vista energetico o comunque più efficienti. Non siamo riusciti a fare questo perché non avevamo assegnati quei giochi, siamo subentrati a Maribor e abbiamo cercato comunque di dare un taglio, tra virgolette, green e giovane al nostro evento, perché comunque è una vetrina sul mondo, quindi volevamo far vedere anche che in una piccola provincia, cioè una piccola zona di montagna, si riescono a fare, a attivare dei meccanismi virtuosi. Poi vabbè, lo sappiamo, poi Bazzanella, grazie tra l'altro per essere stato con noi, siamo in chiusura, lo sappiamo che in Trentino siete bravi a fare questo, c'è poco da fare, bisogna prendere appunti, quindi adesso chi vuole approfondire approfondisca. È arrivato il momento di dire chi vince il premio di oggi, la Smartbox Peccati di Gola, per due persone, tante belle storie, molte però riferite, che parlano, i protagonisti sono altri, come Franco da Rimini, 10 assunzioni, è bellissimo, però sono gli assunti i protagonisti. Volevamo caso, premiare tutti e 10, ma non abbiamo 10, non è possibile. Allora, il vero protagonista è Bartolomeo da Genova, che con le sue manine, a giudizio insindacabile nostro, ecco l'applauso della redazione, ha fatto i pacchi alimentari per le famiglie che hanno bisogno a Genova. Complimenti. È il volontariato, un pensionato che fa volontariato, è sempre una storia bella. Complimenti Bartolomeo, vince la Smartbox Peccati di Gola per lei e per un'altra persona che vuole andare con lei. Niente, noi ci salutiamo. Io devo ringraziare Andrea Piana, che ha scritto con noi il programma, così come Giorgio De Luca in redazione, Paolo Corleoni, che ha resistito ad una notte da leoni, possiamo dirlo, perché ieri, insomma, Radio 24 ha festeggiato le feste di Natale, non ufficialmente ma informalmente, quindi ci sono i postumi, però è andato tutto bene. Noi ci sentiamo, salutiamo domani. Noi tanti saluti, e soprattutto, diciamo, allora, per fortuna Gabardini, che ci ascolta in podcast, ma per fortuna non siamo l'Uganda, meno male. A domani. Si può fare cronache da un paese migliore.